24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:22 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Subito il tema del nostro sondaggio che potete già votare su radio24.it. Parliamo della decisione mai confermata in Cassazione di rimuovere quel giudice, ve lo ricordate, che non voleva tenere udienza in aula perché c'era il crocefisso. Ha fatto una battaglia, è stato rimosso. La Corte di Cassazione ha sancito che il crocefisso è l'unico simbolo religioso che può stare nelle aule di tribunale. Trovate tutto questo giusto? Votate su Radio24.it, ne parleremo poi alle 8:30. E da dove iniziamo, come di consueto, dai giornali in edicola. Lifebook Fujitsu con processore Intel. Più sicurezza ai tuoi dati. Cambia portatile.it. Vi presenta In Primo Piano. Martedì 15 marzo i giornali si concentrano sull'incubo, questa è la parola da utilizzare ormai, incubo nucleare che proviene dal Giappone. Rischi nucleari, Tokyo chiede aiuto, così apre il Sole 24 Ore. Per il Corriere, Tokyo invoca aiuto per i reattori. Per Repubblica, Giappone sull'orlo del disastro nucleare. La Stampa, nucleare ora il mondo ha paura. Come vedete i titoli sono tutti simili. Il Messaggero, nucleare, Tokyo chiede aiuto agli USA. Mentre il Fatto Quotidiano, un'altra Chernobyl, il mondo trema. Aprono sulla vicenda Fini, Fini salvato dai giudici, il giornale, e Fini impunito, Libero. Però del giornale voglio segnalare un grande scoop, fatto tra l'altro da un amico di Radio 24, Fausto Biloslavo, ha intervistato per il giornale Muammar Gheddafi. Certo, lo vedremo. Parla Gheddafi, Italia attenta, mi posso alleare con Al-Qaeda. Questo in prima pagina del giornale. Da cosa voglio partire come segnalazioni? Beh, si avvicina il 17 marzo, si avvicinano le celebrazioni per l'Unità d'Italia, lo strappo della Lega al Pirellone. Dunque siamo in Lombardia, leggo dal quotidiano nazionale, Fratelli d'Italia, cantatevela voi. I consiglieri del Carroccio entreranno dopo l'inno ed è Andrea Gibelli in particolare che tra l'altro in un intervento a pagina 3 sulla Padania dice quando suonerà l'inno non ci sarò, è un consigliere regionale della Lega. La retorica in questo momento non serve, ho deciso di non celebrare con l'inno nazionale la giornata per questi motivi e quella che secondo me è una mancanza di opportunità di celebrare quanto spesso viene ignorato da più parti. Mentre si inneggia l'Unità d'Italia al tricolore, il retaggio dello Stato italiano centrista prende dalla Lombardia più risorse di qualsiasi altra regione italiana. Mentre si celebra l'Unità d'Italia in Lombardia e la Lombardia da sola produce in termini di PIL quanto un medio Stato del centro Europa, puntualmente è costretta a riversare buona parte di questi guadagni. Insomma, Andrea Gibelli, che è il vice governatore della regione Lombardia, dice: voglio combattere questa ipocrisia latente che ci vede uniti un giorno e divisi gli altri 364. Insomma, loro festeggiano e noi paghiamo, così titola la Padania, e anche il quotidiano nazionale racconta di questo strappo della Lega al Pirellone che dice Fratelli d'Italia, cantatevela voi. La seconda segnalazione proviene dal giornale, a pagina 19, viene da Treviso, lascia tutto alla badante, eredi sconfitti in tribunale. Un appartamento, 20.000 euro, questi beni che un'anziana trevigiana ha voluto donare alla badante che l'aveva accudita negli ultimi anni di vita quando era stata abbandonata dai parenti. E letto il testamento della nonnina, in 8 avevano denunciato per circonvenzione di incapace la 55enne moldava che 6 anni fa si era trasferita nell'abitazione dell'anziana, ma il giudice ha deciso di dare ragione all'anziana morta, dunque di dire che il testamento è valido, ha riscritto il finale della storia, ha assolto da circonvenzione incapace l'accusata e che quindi potrà beneficiare dell'eredità. D'altronde nel centro di Treviso tutti vedevano come aveva accudito questa anziana per anni come una figlia. I vicini di casa hanno confermato tutto, la badante che portava a passeggio l'anziana, pulita sempre, compresa la domenica per andare a messa, puntuali, sempre alla stessa ora, fino al 2008 la malattia e poi la morte, la lettura del testamento, la sorpresa con i nipoti che si sono si sono appellati al giudice, 8 nipoti che si infuriano, gridano alla truffa, denunciano la badante per circonvenzione di incapace, ma il giudice dà torto ai parenti. Lascia tutto alla badante, eredi sconfitti in tribunale. Così il giornale. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ripartiamo da Giappone, dallo scoop del giornale che intervista Gheddafi e dalle cose italiane. In primo piano. Come detto, il Giappone, e non solo il Giappone, tutto il mondo è col fiato sospeso per capire che cosa sta succedendo dal punto di vista del nucleare. Certo, con un po' di cinismo, perché non è la prima vera tragedia in termini numerici, in termini di devastazione, di perdita di vite umane concrete che già si possono toccare con mano, però guardando ai giorni prossimi, guardando al futuro, tutti i giornali si concentrano su quello che è considerato, per esempio il Fatto Quotidiano lo mette a un passo dalla fusione, 24 ore per l'apocalisse. Potrete leggere molti giornali oggi, anche se il consiglio è quello magari di seguire Radio 24, perché chiaramente gli aggiornamenti, oggi è una giornata decisiva e quindi ieri sera per esempio c'è stata un'altra esplosione all'interno della centrale di Fukushima. Jacopo Giliberto a pagina 3 del Sole 24 Ore risponde un po' a tutte le domande: l'allarme fusione, che cosa, quante sono le centrali, quali sono i rischi per le persone, cosa succede se il nocciolo della centrale fonde. Tutte domande alle quali tra l'altro cercherà di dare risposta anche Oscar Giannino, alle 9 si occuperà di questo tema. E le reazioni internazionali già ci sono. Spesso si dice che gli italiani sono un popolo che sull'onda dell'emotività, soprattutto sul nucleare, reagisce. Beh, però anche ci fa sapere il Sole 24 Ore che altri paesi come la Germania, primi stop al nucleare, ecco a pagina 5, Berlino congela i piani. La moratoria, già con accenni di serrata della Germania sull'onda di una delicata fase preelettorale, la decisione di prorogare il funzionamento di tutte le 17 vecchie centrali atomiche giunte teoricamente a fine vita verrà congelata per almeno 3 mesi. Nessun ripensamento invece in Francia, dove l'atomo copre l'85% dei consumi italiani, nessun ripensamento anche da parte del governo italiano, che dice andiamo avanti sull'atomo, anche se chiaramente c'è il dibattito aperto e c'è un'intervista che vi segnalo per Luigi Bersani, il leader del PD, sull'Unità, pagina 6. Dice il PD ora scenderà in campo per il referendum promosso soprattutto dall'Italia dei Valori, che sarà a giugno, sul nucleare, perché si tratta di un caso estremo, è vero. Ci sono nel mondo generazioni di centrali più evolute, dice Bersani. Tuttavia continuare a classificare come emotive le reazioni dell'opinione pubblica è sbagliato. E dunque Bersani dice: il governo devia l'attenzione dalle vere priorità, che sono l'efficienza energetica, l'investimento nella ricerca, le fonti rinnovabili. E dice Bersani: il piano nucleare è sbagliato. Ma ripeto, Oscar Giannino si concentrerà su questo tema alle 9. Intanto su Repubblica c'è già una prima stima, così come sul Sole 24 Ore, di quelli che sono i danni. E beh, la banca Nomura, banca giapponese, ha stimato in 180 miliardi di dollari le stime per ricostruire il Giappone. Ragazzi, è una catastrofe senza proporzioni, senza pari. Pari al 3% del PIL del paese, 180 miliardi di dollari. Il Giappone comincia a contare i danni, è una stima ovviamente. Ma certo, 180 miliardi di dollari vuol dire già tantissimo. Pensate che nel 95 ci fu un terremoto devastante che costò già il 2,5% del PIL del Giappone. Il nucleare dovrà importare, il Giappone, per il nucleare in tilt, 400.000 barili di petrolio in più ogni giorno. Ci sono delle foto impressionanti, per esempio, l'ho trovata una sul Corriere del Giappone, che voi... siamo abituati sempre a vedere tutto iper, mega, super illuminato nei quartieri centrali di Tokyo, coi quartieri centrali di Tokyo, quelli della vita notturna anche, completamente al buio, perché bisogna risparmiare energia. Davvero, non si ha l'impressione, anche se guardando le foto, leggendo i resoconti, qualcosa si capisce dell'immane tragedia che stia vivendo quel paese. L'altro tema internazionale che trovate sviluppato sui giornali è sicuramente la Libia, dove sapete ormai i ribelli paiono asserragliati a Bengasi, una Bengasi che ora teme la vendetta, il massacro delle truppe di Gheddafi, ma io voglio andare a questo punto al giornale che, come anticipato, ha fatto uno scoop non indifferente. Fausto Biloslavo, che spesso anche gli amici di Radio 24, gli ascoltatori di Radio 24 sono abituati ad ascoltare, ha intervistato niente po' di meno che Muammar Gheddafi. Un'intervista in esclusiva, pagina 4 e 5, con tanto di foto, la stretta di mano tra Fausto Biloslavo e il leader della Libia a Baba Lazizia, la cittadella fortificata al centro di Tripoli. Arriva una chiamata, racconta Biloslavo, e mi dicono: intervisterai Gheddafi. Dopo 4 ore vengo portato nella cittadella fortificata tra 1000 precauzioni. C'è un vasto prato verde, palme, incredibilmente una mucca pezzata che neanche fossimo in Svizzera. L'intervista sotto una grande tenda. Gheddafi arriva, mi saluta: Salam Aleik, la pace sia con te. E sorride, è un Gheddafi molto sereno, tranquillo, che ne spara di tutti i colori. Ed ecco qui che inizia l'intervista. Dialogo con chi? Inizia così Gheddafi. Il popolo è dalla mia parte, la gente ci chiede di intervenire dicendo liberateci da queste bande armate, terroristi legati a Osama Bin Laden. Non hanno speranze, per loro è una causa ormai persa, ci sono solo due possibilità: arrendersi o scappare via. I terroristi verranno processati, ma la gente normale verrà perdonata, ci sarà clemenza se abbasseranno le armi. E ancora Gheddafi: il popolo è con me, il resto è propaganda, posso solo ridere. E poi però parla dell'atteggiamento degli ex partner europei, tra cui l'Italia. Sono realmente scioccato dall'atteggiamento dei miei amici europei. In questa maniera hanno messo in pericolo e danneggiato una serie di grandi accordi sulla sicurezza. E chiede Biloslavo: con Berlusconi c'era un rapporto personale. Sono talmente scioccato, mi sento tradito, non so che dire a Berlusconi. Così risponde Gheddafi. E poi riguardo ai contratti dell'ENI: penso e auspico che il popolo libico riconsidererà i legami economici e finanziari nel campo della sicurezza. Beh, lei significa che volete rescindere i contratti energetici con l'Italia? Chiede Fausto Biloslavo. Quando il vostro governo sarà sostituito dall'opposizione, accadrà lo stesso col resto d'Europa, il popolo libico prenderà forse in considerazione nuove relazioni con l'Occidente. Insomma, un Gheddafi che sembra disposta a vendere carissima la pelle, a dire: ora se rimango al potere, come lui dice, conferma, rimarrò al potere, cambierà tutto. E ancora sentite cosa dice di Sarkozy: penso che Sarkozy abbia un problema di disordine mentale. E il colonnello si batte il dito indice sulla tempia per spiegarsi meglio. Ha detto delle cose che possono saltare fuori solo da un pazzo. Gli americani, se diventano matti come Reagan, ci attaccheranno. Noi combatteremo e vinceremo. Insomma, un Gheddafi che effettivamente, come dice Biloslavo, le spara davvero grosse. La nostra è una guerra contro Al-Qaeda, ma se loro, cioè gli occidentali, si comportano con noi come hanno fatto in Iraq, la Libia uscirà dall'alleanza internazionale contro il terrorismo. Ci alleiamo con Al-Qaeda e dichiariamo la guerra santa. Questo Muammar Gheddafi, che in esclusiva parla a Fausto Biloslavo sul giornale. Davvero inquietante. Venendo alle cose italiane, le cose un po' più misere italiane, di politica italiana. Beh, intanto c'è qualche grattacapo per il Presidente del Consiglio. Qualche grattacapo che sono... Beh, intanto uno l'ha liquidato un po' con una battuta. Ieri protestava qualche sindacato di polizia davanti alla sua residenza ad Arcole. Lui è uscito, ha detto: Tremonti, sapete, dice che i soldi non ci sono. Perché non lo fate fuori? Questo sorridendo ai poliziotti che stavano manifestando per alcuni tagli. Eccolo qua. Tremonti dice che i soldi non ci sono. Perché non lo fate fuori? Si è presentato con giubbotto della polizia e ha detto: cercheremo di far venire fuori soldi, 80 milioni in uno del prossimo Consiglio dei Ministri. Ma il vero problema, o meglio il vero mal di pancia all'interno della maggioranza, per il terzo giorno consecutivo scritto dai giornali, è la vicenda Scajola. Scajola che chiede nuovamente spazio, Scajola che insomma non ci sta ad essere stato messo un po' da parte dopo le dimissioni della casa a sua insaputa, eccetera. Il Premier vede i suoi vertici sul rimpasto e sul ruolo di Scajola, così a pagina 19 del Corriere della Sera. Ed ecco qui anche sulla stampa il solito ben informato Ugo Magri: Scajola, Berlusconi prova a mediare. L'ex ministro, scrive Ugo Magri, capeggia una fronda di deputati che per Re Silvio si sarebbero fatti scuoiare vivi, però adesso si sentono traditi, feriti nel loro lealismo. Chi sono i deputati che controlla Scajola? Sono quei deputati, racconta La Stampa, sempre puntuali nelle votazioni, ligi al dovere nelle commissioni, insomma i fedelissimi, eppure quasi certi che verranno sacrificati il giorno in cui si faranno le liste elettorali per far posto ai nuovi acquisti. Perché? Perché bisogna fare spazio, per esempio, ai cosiddetti responsabili, quelli che hanno votato la fiducia e che ora pretendono e si aspettano, insomma, qualche posto. Tanto che Libero è abbastanza certo che in settimana arriverà il rimpasto di governo. A pagina 8 Salvatore Dama racconta questo. In settimana Saverio Romano, uno dei responsabili, alle politiche agricole. Paolo Bonaiuti, il portavoce del Premier, alle politiche comunitarie. E Galan, ai beni culturali, in sostituzione di Bondi. Questi dovrebbero essere i primi step del rimpasto di governo. Così dice Libero. E poi ci sono qualche schermaglia, scaramuccia, qualche polemica. Dario Fo, che in un'intervista al Fatto, da cui ripartiamo dopo il traffico, dice: confermo, l'ho detto in piazza e lo dico anche in questa intervista, Silvio Berlusconi è scemo. Così Dario Fo. In primo piano. E allora, Silvio Berlusconi è scemo. Dario Fo, Dixit, intervistato da Fabrizio Desposito sul Fatto Quotidiano, a pagina 8, ribadisce: certo, con le cose che dice e che fa è fuori di testa a livello di scemenza. E poi Dario Fo che dice: quando è cominciato il 68 io c'ero, avevo più di 40 anni, che fantasia, che creatività, spero si possa arrivare a un altro momento del genere. L'ultima di Berlusconi, dice Dario Fo, è quella del cerotto in faccia. Mica è stato operato da fuori, dai, ho parlato con vari chirurghi, tutti mi hanno detto che avevo ragione, quel cerottone è stato messo per fare scena. Ma che cazzo di invenzione! Così sbotta Dario Fo, al quale Fabrizio Esposito dice: ma lei sobilla? No, io sollazzo e faccio sollazzare. A Milano, prima che prendessi la parola, la gente non aveva avuto una reazione a quello che stavo ascoltando. Poi ho parlato io, l'ho buttata in ironia, in sollazzo. E lo sa con quali argomenti? Con la pura cronaca. Un Dario Fo che dice: ancora in piazza, bisogna andare in piazza, il PDL ha paura. Insomma, e poi sempre tra le varie polemicucce, se volete ce n'è una che Libero mette in prima pagina, pare che siano agli stracci in faccia reciproci De Magistris e Beppe Grillo. Blef, volta Gabbana, iniziato Beppe Grillo, è la fine di un vecchio amore. Beppe Grillo che dice: sulla sua attività di europarlamentare confidavo molto, mentre va sempre in TV, poi ha avuto l'immunità, ha invocato l'immunità parlamentare, una risposta all'altezza di Berlusconi. Così Beppe Grillo di De Magistris, che risponde: non viva nel lusso nelle case, Beppe Grillo. Mi dispiace, Grillo ha deciso di rompere un rapporto d'amicizia. In Europa svolgo un grande lavoro, non mi sono mai avvalso dell'immunità di Berlusconi. Grillo usa lo stesso linguaggio del giornale di Libero. Insomma, stracci in faccia tra De Magistris e Beppe Grillo. È una cosa molto più seria, invece, che giustamente trova lo spazio nelle prime pagine dei giornali, una vicenda che riguarda il Andrea Carandini, archeologo di rilievo internazionale, che è nominato presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, ieri si è dimesso in dissenso con i tagli del governo alla cultura. Carandini si dimette per protesta, taglia la cultura inaccettabili. Il Corriere della Sera pubblica la sua lettera: ho scelto un atteggiamento super partes, riuscendo a preservare il Consiglio dagli scontri della politica. Ma poi Carandini dice: nel marzo 2009 il Ministero poteva contare su 155 milioni di euro per la tutela, cifra già allarmante che per essere giudicata va comparata con la somma che l'istituzione era ed è in grado di spendere, 450 milioni. Ho sperato in un recupero, quantomeno in un'assenza di tagli. Si sono succeduti invece tagli sempre più duri che hanno leso la possibilità del Ministero di agire. Il ministro Bondi è stato colpito prima ancora che dall'opposizione, dal governo e dallo stesso partito di cui è il coordinatore nazionale. Governo che ha risposto alle reiterate richieste con altrettanti dinieghi, compresa una domanda di personale in favore di Pompei. Il problema è che il fondo è stato raggiunto, scrive ancora Carandini. In questa situazione miserevole ho perso la speranza. Se la nave fosse stata colpita da un nemico rimarrei sulla tolda per dare manforte ai funzionari dediti al bene comune. Ma qui è una parte rilevante della Repubblica che affonda sé medesima nella qualità e identità delle nostre vite. È bello servire lo Stato quando sei messo nella condizione di farlo. Sarei ancora pronto a servirlo ove un atto politico rilevante, concreto, arrivasse a segnare una svolta, senza la quale la prognosi per questo ministero è la morte. Lancio un allarme. Ci stiamo allontanando dalla patria, anche quella visibile, fatta di paesaggio, storia, arte. Rischiamo di perderla. E non sono passate neppure 5 generazioni dalla fondazione dello Stato italiano. Insomma, il presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, proprio a ridosso tra l'altro dei festeggiamenti dell'Unità d'Italia, fa questa dura accusa: una parte del paese sta affondando se stessa e si dimette da questo ruolo. Tra l'altro viene intervistato da Antonello Cherchi sul Sole 24 Ore, dice: posso rimanere solo se arriva un nuovo ministro e riesce realmente a cambiare la situazione. Io non ce l'ho con Bondi, tutt'altro. Il ministro è stato sacrificato dal governo che non gli ha concesso un euro. Dicono che i tagli hanno colpito tutti i dicasteri nella stessa maniera. Insomma, un Carandini molto molto deluso che lascia l'incarico. Oh, c'è tempo e spazio per dare 2 segnalazioni che poi tratteremo e svilupperemo più avanti. La prima è questa: una nuova operazione contro l'Andrangheta in Lombardia. È una cosa impressionante. Dai pacchi delle TNT ai locali, le mani dei boss su Milano. Racconta Luigi Ferrarella, pagina 28 del Corriere della Sera, il pacco postale sotto la multinazionale TNT lo recapitano i 150 furgoni delle cooperative dell'Andrangheta. Il panino con la porchetta comprato davanti alla partita, prima di una partita a San Siro, incorpora la tassa di sosta in strada che il clan impone agli autonegozi alimentari. I camion per trasportare la terra nei cantieri del metro 5 Zara del Portello Fiera. Non esiste cantiere in cui non si presenti il solito camion di padroncini calabresi. Insomma, un'economia vessata totalmente in tutti i suoi gangli dall'Andrangheta. Di questo ne parleremo con il procuratore capo di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone, che sarà ospite nell'intervista alle 8:20. Mentre il tema del nostro sondaggio è molto sviluppato dai giornali, verdetto sul crocifisso: è l'unico simbolo negli uffici pubblici. Così ha stabilito la Cassazione nel confermare la rimozione di quel giudice che sarà nostro ospite alle 8:30, giudice che non voleva e non vuole tenere udienza laddove ci sono i crocifissi, per questo è stato rimosso dalla magistratura. E nel confermare la rimozione, la Cassazione ha detto: il crocifisso è l'unico simbolo che può stare nelle aule di tribunale. Per altri simboli ci vorrebbero leggi apposite. Il manifesto è molto duro: è legge la legge del duce. Il crocifisso è più uguale degli altri. La Cassazione: negli uffici solo il crocifisso. Così titola Repubblica, pagina 24. È l'unico simbolo ammesso. La laicità dello Stato non si discute per la presenza di questo simbolo. È il tema di cui ci occuperemo alle 8:30 del nostro sondaggio. Potete già votare. È stato rimosso il giudice che non voleva tenere udienza laddove c'era il crocifisso in aula. Secondo voi è giusta questa decisione? Votate su radio24.it. Ripartiremo dopo il GR col procuratore capo di Reggio Calabria. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qua per la nostra intervista di oggi. Voglio salutare il procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. Dottor Pignatone, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, l'ultima operazione sull'Andrangheta è proprio di poco fa, danno le agenzie. C'è un'operazione in corso a Polistena contro presunti affiliati della Cosca Longo. Di che operazione si tratta? Come accenna lei, sono gli affiliati di una delle cosche storiche della provincia di Reggio Calabria. Polistena è un grosso centro sulla la costiera ionica della provincia, da molti anni non, non vi erano indagini significative nella zona. Questa mattina la polizia sta eseguendo 35 ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa e altri reati, diciamo, minori. Senta, non stupirà certamente lei, a me un po' stupisce leggere oggi sui giornali come il Corriere della Sera le mani dell''ndrangheta su Milano. Sappiamo che l''ndrangheta è in tutto il mondo, l'abbiamo scoperto che anche in Australia, in Canada, eccetera, ma l'operazione di ieri a Milano, la pervasività dell''ndrangheta anche nell'economia della Lombardia, lei la colpisce? Ma guardi, l'indagine di Milano di ieri, appunto, ne parleranno i colleghi di Milano, a cui va sempre la mia ammirazione e il mio ringraziamento. E la presenza dell''ndrangheta nel nord Italia, soprattutto Piemonte e Lombardia, risale a molti anni fa. Io credo che il 2010, con una serie di indagini, come dire, a catena in qualche modo, soprattutto, non solo, ma soprattutto fra le DDA di Reggio Calabria e di Milano, culminate nell'operazione, quella, il crimine, denominato il crimine del luglio scorso, cui sia noi che i colleghi milanesi ogni volta ci rifacciamo, perché ha rappresentato lo stato dell'arte e ha documentato con la evidenza dei filmati, delle registrazioni, al di là di ogni ragionevole dubbio, per usare un linguaggio tra le film americane, la presenza di organizzazioni mafiose in Lombardia, il loro strutturarsi, sì, il loro riunirsi, persino nella famosa sala Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano, il loro mantenere i riti ormai consolidati in decenni, e insieme la loro capacità di penetrare settori della politica locale, dell'amministrazione, dell'economia, mantenendo sempre, questo mi pare fondamentale, il contatto con la provincia di Reggio Calabria, che continua a rappresentare in qualche modo il cuore, la testa dell'organizzazione. Questo direi che è la svolta che consente a tutti, richiamando innanzitutto l'attenzione degli organi di informazione, di capire la dimensione del problema. Mm. Senta, perché c'è tanta omertà, confermata anche negli arresti di ieri, da parte di chi paga il pizzo, da parte di chi assolutamente accetta questa condizione da parte di 'ndrangheta? Parlando in generale, non con riferimento all'operazione di ieri, ovviamente ci sono due fenomeni diversi. Da un lato c'è, ed è innegabile, un sentimento di paura, di preoccupazione in molte delle vittime di queste richieste di denaro. Però bisogna pure dire che intanto in Lombardia, a differenza che in Calabria, non c'è certamente una situazione di consolidata presenza storica che qui può giustificare il fatto che il tabaccaio di Reggio Calabria o il piccolo imprenditore dei piccoli paesini della provincia hanno obiettivamente ragioni di preoccupazione molto maggiori di quello che può essere il medio o piccolo grande imprenditore di Milano o della Lombardia. Che pure non parla neanche lui, però. E lì subentra spesso, naturalmente va poi visto caso per caso, però bisogna, secondo me, essere consapevoli che non si riduce tutto a paura. Molto spesso c'è un calcolo di convenienza che vale per gli imprenditori, perché pagare e mettersi d'accordo meglio con l''ndrangheta, così come con le altre mafie, ha un costo immediato, ma anche dei vantaggi nel controllo dei lavoratori, perché il sindacato va subito in difficoltà, vantaggio di accesso a denaro più economico di quello che può fornire il sistema bancario, vantaggio nella eliminazione di concorrenti scomodi. Solo che tutto questo non ci si rende conto, probabilmente, che non è che l'imprenditore che accetta di fare questi accordi, ma noi parliamo di imprenditore, ma possiamo parlare pure di pubblico funzionario, sì, certo, sono stati arrestati addirittura dei militari dell'arma a luglio in Lombardia, politici a livello locale. La penetrazione purtroppo non è in un settore specifico della società, è in molti settori. E allora dicevo, non ci si può illudere che tu entri in affari con gli uomini delle cosche, magari ti fai fare un prestito a condizioni di favore e poi prima o poi non paghi non solo non devi restituire il prestito, ma ti trovi queste persone in azienda, perché certo, alla fine sono sempre in grado di tirare fuori quella violenza che è nel DNA dell'organizzazione mafiosa. Senta, procuratore, nel ringraziarla le faccio un'ultima domanda che esula dalla questione 'ndrangheta. Lei tra l'altro è un siciliano, doc, le chiedo, ha visto le polemiche sulla presenza del procuratore Ingroia di Palermo a una manifestazione sulla Costituzione? Lei parteciperebbe mai, secondo lei? Ma guardi, io cerco, per me è un valore, ieri ho visto una bellissima intervista del cardinale Tettamanzi su un quotidiano nazionale, in cui indicava il valore della sobrietà. Io cerco di attenermi a questo. Alla sobrietà. La ringrazio. Buona giornata. A procuratore lei, capo di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, per essere stato con noi. Ci fermiamo per la pubblicità. Poi nel nostro sondaggio parliamo di una sentenza della Cassazione che riporta in primo piano la questione del crocifisso, in questo caso nelle aule dei tribunali, ma non solo, negli uffici pubblici, perché nel confermare la rimozione di un giudice rimosso dall'ordine giudiziario perché si rifiutava, il famoso giudice Luigi Tosti si rifiutava di tenere udienza laddove c'era il crocifisso, la Corte di Cassazione ha stabilito che la presenza del crocifisso non lede alcun principio di laicità dello Stato e che il crocifisso è l'unico simbolo religioso che può essere ammesso in un'aula di tribunale o in un ufficio pubblico, perché altri simboli necessiterebbero di leggi. Insomma, la questione è questa nel nostro sondaggio: rimosso il giudice che non voleva il crocifisso in aula. Secondo voi è giusto così? Ne parliamo, votate su radio24.it oppure 800 24 0024. 24 mattino. Alle 8.34 minuti, allora la Corte di Cassazione ieri ha stabilito, nel confermare la rimozione dall'incarico della magistratura di Luigi Tosti, che il crocifisso è l'unico simbolo religioso che può essere esposto negli uffici pubblici. Altri simboli religiosi avrebbero bisogno di una legge apposita. E poi un crocifisso in un'aula di tribunale non lede il principio di laicità dello Stato. Allora è il tema del nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Rimosso Luigi Tosti con sentenza di Cassazione e motivazioni, rimosso il giudice che si rifiutava di tenere udienza laddove c'era il crocifisso nelle aule del tribunale. Una decisione giusta per il 57% dei nostri ascoltatori. Luigi Tosti, buongiorno. Buongiorno. Come lei non, formalmente non è più giudice, cioè non fa parte più della magistratura, eh? Cioè non fa parte della, anche se pende credo un ricorso che lei vuol fare a Strasburgo, insomma, però di fatto Non l'ho ancora fatto perché dovevo attendere questa decisione. Intanto mi lasci salutare anche l'onorevole Luca Volontè, capogruppo dell'UDC alla Camera. Buongiorno onorevole Volontè. Buongiorno a lei, buongiorno al Tosti. Allora dottor Tosti, qui la questione è che molti dicono ma lei insomma ha fatto una battaglia un po' esagerata, nel senso che a un certo punto le avevano messo a disposizione anche un'aula di tribunale senza crocifisso per le sue udienze. Lei ha detto no, questa è una forma ghettizzante, insomma. Che ne pensa? È deluso? Che ne penso? Ribadisco che è una proposta indecente, ghettizzante e discriminatoria, cioè ghettizzante nel senso di discriminatoria. Io sono un cittadino italiano che ha dato un concorso in magistratura per lavorare alle dipendenze di uno Stato laico, in un tribunale laico e non in un tribunale né della Santa Inquisizione né di un tribunale ecclesiastico. Se avessi dato un concorso per lavorare alle dipendenze della Chiesa, non avrei avuto alcun valido motivo per rifiutarmi di tenere udienze sotto l'imposizione dei crocefissi. Però siccome a casa mia non tengo crocefissi e ovviamente io sono una persona che rispetta i diritti degli altri e non li impongo agli altri, pretendo che sul posto di lavoro non mi vengano imposti i crocefissi, oppure nel caso in cui mi vengano imposti che io abbia gli stessi diritti e la stessa dignità di coloro che sono cattolici o cristiani, e quindi che anche io possa esporre i miei simboli. Però la Corte di Cassazione, mi scusi Tosti, la Corte di Cassazione ha detto che in la presenza del crocifisso di per sé non lede alcuna laicità dello Stato, cioè non è che lei emette sentenze in nome della Santa Inquisizione, insomma, in nome della legge. Allora, la Cassazione, se legge bene la sentenza, ha ritenuto fondata la tesi che il fatto che io fossi obbligato a tenere le udienze in un'aula senza crocifisso, mentre nelle altre aule veniva esposto, in tutte le altre aule veniva esposto il crocifisso, non ledeva il diritto di libertà religiosa. Però ha ritenuto, al contrario, che il fatto che mi venisse imposto di tenere le udienze sotto imposizione del crocifisso ledeva il mio diritto di libertà religiosa. Perfetto. Senta, ma lei dal giorno della prima udienza ha posto questo problema, oppure è una cosa che le è venuta così nella vita, un'elaborazione del pensiero? Ma guardi, è tutto scritto negli atti, quindi basta leggerselo. Dall'ottobre del 2003 che ho sollevato la questione, quando all'indomani della ordinanza del giudice Montanaro in Italia c'è stata una sollevazione popolare e sono cominciati a comparire crocifissi da tutte le parti e quindi è stato imposto questo crocifisso, l'ho staccato e ho subito un'ispezione ministeriale per aver staccato un crocifisso, quindi mi è stato imposto per più di 2 anni, ho fatto un ricorso al TAR E da lì, insomma, è iniziata tutta la vicenda. Ma mi lasci sentire, onorevole Luca Volontè, lei che ne pensa? Una battaglia di retroguardia, una battaglia di principio, una battaglia sbagliata quella del dottor Tosti? Certamente il dottor Tosti ha fatto una battaglia di principio, questo è ovvio, da anni la sta facendo. Ma mi chiedo, una volta che lui sia entrato in magistratura, come facesse a non sapere che esisteva, era attualmente, ed è come ancora oggi attualmente in vigore il regio decreto che obbliga l'esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici, tra cui il tribunale, gli ospedali, le scuole, e come non si sia reso conto che questo principio dell'esposizione del crocifisso lo ribadisce più volte, non come dice il professor, il dottor Tosti, il Vaticano, la Santa Inquisizione, ma la magistratura italiana in decine di sentenze continua ad affermare un dato della realtà, cioè che l'esposizione del crocifisso non lede in alcunché la laicità dello Stato e la libertà religiosa delle persone. Aspettiamo tutti quello che accadrà con la sentenza di Strasburgo tra qualche giorno e vedrete che andrà nella stessa direzione. Sì, perché bisogna ricordarlo, tra l'altro questa sentenza della Cassazione precede di 4 giorni una sentenza invece che sarà inappellabile, cioè l'ultimo grado di giudizio a Strasburgo, perché pende un ricorso di alcuni cittadini italiani che hanno detto togliete i crocifissi dalle scuole. Ci sarà, credo, venerdì, no, onorevole Volontè, la sentenza venerdì. Definitiva venerdì, se questi crocifissi possono e hanno diritto di stare appesi in edifici scolastici oppure no. Però onorevole Volontè, qui Luigi Tosti dice: io, insomma, perché mi devo vedere imporre un simbolo che io non riconosco? Nel senso, certo, c'è questo regio decreto del 1926, tanto che oggi il manifesto titola "È legge la legge del duce", no? Onorevole Volontè, come provocazione anche questa non è male. Ma lasciamo perdere. La legge del duce, non è che tutte le leggi del duce sono in vigore in Italia, ci sono alcune leggi che il legislatore italiano per 60 anni ha deciso di non modificare perché riteneva che andassero bene nei governi di centrodestra, nei governi di centrosinistra, nei governi con i radicali al governo, nei governi con i radicali all'opposizione. Quindi se gli italiani hanno ritenuto, tutti i governi della Repubblica, di mantenere in vigore quella normativa, vuol dire che tutti noi abbiamo ritenuto questa normativa, come ritiene oggi nel giro della polemica con grande spazio Luigi Tosti, la stragrande maggioranza degli italiani, il crocifisso non leda nessun diritto. E questo è per la legge. Dottor Tosti, lei effettivamente c'è questa legge, questo regio decreto? Non c'è nessuna legge, lei sta dicendo una cosa errata. C'è una semplice circolare del 1926 che la Corte circolare di Cassazione, con sentenza del 2000, il 1 marzo 2000, ha ritenuto abrogata, affermando che la presenza del crocifisso lede il principio supremo di laicità. Quindi e allora dicendo, come mai ieri la Corte di Cassazione ha stabilito il contrario? Guardi, quella sentenza addirittura ha detto che è legittimo che un pubblico funzionario si rifiuti di adempiere un incarico obbligatorio addirittura in un seggio elettorale dove non era esposto il crocefisso, perché il principio di laicità, ha detto la Cassazione in quella sentenza, non va osservato a macchia di leopardo, ma va osservato in tutte le aule, e quindi non rimuovendo un crocefisso da una singola aula. Ora, questo principio della Cassazione stranamente non è stato applicato nel mio caso. Sì. Dico stranamente perché ne ho fatto un motivo esplicito di ricorso per Cassazione, che potete, tu chiunque lo può leggere, e la Corte di Cassazione e le sezioni unite hanno obliterato, se sono cioè rifiutate, di rispondere su questo punto. In ogni caso, qui non stiamo parlando soltanto del principio di laicità, qui stiamo parlando di due diritti inviolabili, che sono quello del diritto a libertà religiosa e dell'eguaglianza. Io ho chiesto che venisse esposta la menorah ebraica perché rivendico gli stessi diritti e la stessa dignità dei cattolici. Sì, perché qualcuno... Gli ebrei tosti... non sono esseri inferiori. Ma chi l'ha detto? Ma chi, ma chi lo dice, scusi, Tosti? Chi lo dice? E chi lo dice che gli ebrei sono esseri inferiori? Se mi viene imposto un simbolo, no, avrò o non avrò il diritto, in base all'articolo 3 della Costituzione, in base all'articolo 14 della Convenzione sui diritti dell'uomo, di esporre i miei simboli, in base tra l'altro a un... Ho capito, ma questo è opinabile, mi scusi Tosti, nel senso, se no, io non lo so se nei tribunali di Israele c'è la menorah esposta, però ma non credo. No, io non sto parlando di Israele, io sto parlando dell'Italia. Scusi, ho capito, però il principio se deve essere biunivoco. I bianchi possono entrare nei bar e negli uffici pubblici, i neri ci possono entrare? Rispondete ma a questa sì, domanda. Ma questo sì, però onorevole Volontè, ne fa una questione di perché qualcuno ci ha messo anche, ci ha posto questo problema, che però lei Tosti stesso ha detto, cioè la questione, chiedete a Tosti, ma è una cosa di cui non ha mai fatto mistero, che religione appartiene, appunto alla religione ebraica, e quindi ha chiesto l'esposizione della menorah. Ma non conta nulla la religione, io posso essere ateo, posso essere musulmano, posso essere buddista, e posso essere ebreo, qui non conta nulla, qui è il diritto di eguaglianza. Bisogna che i cattolici si mettano in testa che siamo tutti uguali, quindi se viene esposto un simbolo, anche gli altri hanno il diritto di esporlo. E non pensate, e non sperate che venerdì prossimo la Corte Europea accolga il ricorso del governo italiano, sarebbe una follia, una pura follia. Vabbè, su questo vorrei che rispondesse, ma dopo le informazioni sul traffico, l'onorevole Volontè. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È salito di un punto percentuale, 58% che dice giusto rimuovere un giudice che non vuole il crocifisso e non vuole tenere udienza laddove c'è un crocifisso. Onorevole Volontè, risponda alla posizione di Tosti, che dice insomma, se c'è parità di diritti io devo avere il diritto di esporre la menorah ebraica se c'è il crocifisso, o se no niente, ecco. Ma guardi, ha risposto al dottor Tosti la Cassazione dicendo che il legislatore potrà valutare se cambiare la normativa o introdurre con una normativa l'esposizione di altri simboli religiosi. Non c'è bisogno che risponda io. Però non è solo una questione di legge, onorevole. Cioè, non mi risponda solo, è solo una questione di impunta di diritto, onorevole. Cioè, se domani c'è una legge... Scusi, c'è un punto di diritto che mi stupisce che il dottor Tosti faccia finta di negare. Lui ha dito a tutti i gradi di magistratura, la Cassazione ha confermato, come fa da anni, l'idea che il crocifisso, per quanto riguarda la storia culturale del nostro paese, sia un simbolo laico, punto, punto a capo, lettera maiuscola, non è che ci sono altri spazi. Se il legislatore, come dice la Cassazione, ritiene che debba fare una nuova normativa, la farà. Fino a quel punto, dice, rimane così. Ma mi stupisce questa continua polemica del dottor Tosti, cioè lui che, che viene dalla magistratura, segue tutti i gradi di giudizio, non si fida di quella cercazione, allora a questo punto diventa un po' strana la situazione, perché diventa una polemica non per la parità e la libertà religiosa degli altri, ma soprattutto per affermare il principio che il crocifisso non fa parte della nostra cultura e non è certamente un simbolo laico. Ma sa, onorevole Volontè, le sentenze si rispettano, ma come si suol dire, si possono anche discutere, siamo qui a discuterle. Voglio sentire Margherita dalla provincia di Milano, buongiorno. Buona giornata, credo che una volta di più sia sempre alla base di questa protesta di questo giudice una grande confusione, peraltro strumentale. Il crocifisso rappresenta la radice giudeo-cristiana dell'Europa è sempre stato così e non ha necessariamente una dimensione trascendente, quindi religiosa. Ce l'ha questa dimensione per colui che crede, ma questa è un'altra questione. È vero che peraltro che l'errore fondamentale è stato fatto quando si è omessa questa radice sulla quale peraltro si è fondata tutta l'Europa, e questo è un fatto storico. Questa nella questione europea, lei dice, nella Costituzione europea. Europea. Questo è stato un errore fondamentale perché ha dato l'avvio a tutte queste polemiche, lo ripeto ancora una volta, peraltro strumentale. Mi dispiace che sia un giudice che dovrebbe avere una cultura superiore, anche moralmente superiore, a ricorrere invece a queste strumentalizzazioni. Va bene, grazie Margherita. Voglio sentire Roberto da Torino, buongiorno. No. Sì, mi dispiace per il giudice, ma se la Corte si è espressa in questo modo è corretto che il suo destino sia stato questo. Questo evidenzia però, a mio avviso, una anomalia e una forte ipocrisia. L'anomalia è che in aule di giudizio e in luoghi pubblici di un paese civile, occidentale e moderno sussistano simboli religiosi, non condivisi e non condivisibili da tutta la popolazione. E l'ipocrisia sta un pochino in chi sostiene questa battaglia per mantenere nei luoghi pubblici il simbolo religioso. Faccio esempio la Lega, che ha scoperto il crocifisso. Scoprisse anche che sopra il crocifisso c'è appeso un uomo che ha detto: avevo fame e mi avete dato da mangiare, e in questo momento c'è una nave con 1800 persone in alto mare che sta chiedendo aiuto. Va bene Roberto, grazie. Cristiano da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milan e i suoi ospiti. Che dice lei? Ma guardi dottore, diciamo così, siamo di fronte perlomeno agli ultimi 50 anni in Italia di fortissime ingerenze da parte della Chiesa, che a tratti diventano intollerabili. Insomma, loro di fatto non dicono la loro su tutto, poi tirano, lanciano il sasso, tirano indietro la mano, però insomma dicono la loro su tutto, comunque, ecco, dovunque. Il crocifisso va bene. Però le chiedo Cristiano, cosa c'entra la Chiesa in questo caso? Mi dica, cosa guardi, c'entra la Chiesa? Evidentemente, lei cosa c'entra lo sa, ma comunque glielo chiedo, cosa c'entra la Chiesa, se diciamo una circolare diciamo discussa, discutibile, opinabile dello Stato italiano. Lei sa benissimo che faceva parte di determinati accordi, no? che furono presi tra Stato e Chiesa. Concordato, vabbè. Quindi lei dice, vede dottor Mina, il concetto è questo. Sì. Il dottor Tosti è stato radiato. Sì, sì, non è più il giudice, certo. È stato radiato, cioè, insomma, è stato radiato perché ha detto: scusi, posso mettere la menorah, il candelabro a sette brasi, sì, che ebraico, la mia fede, di fianco al crocifisso? Ma io per esempio nel crocifisso non mi riconosco. Non è che è stato radiato perché voleva mettere la menorah, è stato radiato perché si è rifiutato, ha dimosso i crocifissi, per cui insomma poi si è rifiutato. Vabbè, di insomma, evidentemente poi diciamo così, a polemica si aggiunge polemica. E va bene. Però guardi, dottor Mina, volendo mantenere i toni ad un certo punto, io dico questo, cioè lo Stato è laico, non si devono appendere simboli. Lei si ricorda la questione dei simboli della Lega in quel comune del nord? Sì, certo, come no. Cosa disse Napolitano? Ad una certa età i simboli condizionano molto le persone. Bene, insomma, lei Cristiano è dalla parte della battaglia del dottor Tosti, al quale voglio chiedere, dottor Tosti, in tutta questa vicenda, ma lei è uno dei pochissimi, adesso i giudici mi scriveranno dicendo che non è vero, che non è così, ma pochissimi magistrati, non tanto sanzionati, ma almeno rimossi dalla magistratura, dal CSM, no? Perché poi il CSM è l'organo di autogoverno dei giudici, no? Lei... Ce ne sono di casi. Sì, ce ne sono. Fino alla rimozione sono tantissimi. Io non contesto il discorso della rimozione. Io ho semplicemente faccio presente che sono una persona che a casa sua non espone i crocefissi, al collo non espone i crocefissi, non impongo agli altri di esporre i miei simboli. E quindi non vuole che li vengano imposti. Esatto. Però le chiedo, ha sentito l'ascoltatrice che dice il crocefisso non è di per sé un simbolo religioso, è un simbolo... Questo ragionamento vale anche per la menorah, ma la menorah non è di per sé un simbolo religioso che turba e dà fastidio agli altri. E allora non capisco come il crocefisso non deve turbare me, e però la menorah mia mi è stato vietato di esporre la menorah perché disturba la sensibilità dei cattolici. E in questa sentenza c'è scritto che per esporre altri simboli occorrerebbe addirittura, che questa è una cosa grottesca, una legge. Il crocifisso basta una semplice circolare. E poi dice, non sarebbe sufficiente una legge perché bisognerebbe valutare gli impatti che i simboli degli altri hanno sui cattolici. Come dire, il crocifisso di una superiore religione, che è quella cattolica, non dà fastidio a nessuno e quindi gli altri debbono sopportare la presenza, mentre i simboli degli sporchi ebrei danno fastidio ai cattolici e quindi non possono essere ancora sporchi. Però lei dà questa interpretazione, ma scusi, dà il senso di questa sentenza, ma scusi, dà il senso, ma dà un senso secondo me esagerato. Prima dice essere inferiori, adesso sporchi ebrei. Non c'è scritto nulla di niente in questa sentenza, non, perché la interpreta così, dottor Tosti? Come la interpreto? Beh, come, no, scusi, l'ha degli sporchi ebrei, lo dice lei. L'ha detto lei qualche secondo fa. Ma che l'ha detto, detto io? Lei. Ma che cosa? No, io ho detto, cioè lei dice, questa sentenza dice che gli sporchi ebrei debbono fare una cosa, ma non è vero, non cioè questa interpretazione la dà lei. Ma l'interpretazione, questi sono i fatti storici, io ho esposto la Melerà, mi è stato impedito per questo motivo, perché offende la sensibilità dei cattolici. È come dire, un negro non può salire su un aereo perché offende la sensibilità dei passeggeri bianchi. Questo è scritto nel mio ricorso, leggetevelo. Mi sembra... No, ho capito, ma questo passaggio in più è il come dire, che le aggiunge, che è una sua interpretazione, che secondo me non c'è. Insomma, questa interpretazione che lei dà sugli ebrei non c'è scritta da nessuna parte, è un'interpretazione che dà lei, insomma, è di un po' distorta, secondo me. In ogni caso, io mi devo fermare qui. Vedremo venerdì come andrà invece questa sentenza europea sulla questione del crocifisso. Voglio ringraziare l'onorevole Luca Volontè dell'UDC, capogruppo alla Camera, e Luigi Tosti, il giudice rimosso, che ha fatto questa battaglia. Insomma, l'abbiamo ospitato anche in passato, noi non abbiamo paura a confrontarci con le idee di chi che sia. Benissimo, ci fermiamo con Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè, l'alpino, che tra l'altro abbiamo un'invidia in redazione, abbiamo messo la foto dell'alpino su Facebook, ci sono commenti, fiumi di commenti, mi fermo qui, insomma, anche commenti di nostre appassionate ascoltatrici, insomma, contente dell'alpino Peter Bescapè. Benissimo, ci fermiamo, la linea Oscar Giannino, a domani.